Sento il rintocco che va, l'orologio non si ferma, ma io mi muovo appena. Attorno a me s'agita la vita frenetica, perché il tempo non si incatena. E pensi che il riempire di impegni la giornata comporti una vita piena, quando in realtà quello che poi comporta è guardarti allo specchio e vederti appena. E io guardo il volo degli uccelli e che invidia che ho, mentre vagano senza meta, mentre il criterio di efficienza che vige qua giù, però io mi muovo appena. La la la la la la la la la. Sento il rintocco che va, l'orologio non si ferma, ma io mi muovo appena. Attorno a me s'agita la vita frenetica, perché il tempo non si incatena. Ma guardo dentro di me, nella prospettiva che l'importante è sentirsi viva. E poi quel tempo che imprigiona non esiste più, per un po' mi sento serena. Io guardo il volo degli uccelli e che gioia che ho, per un po' mi sento sospesa, mentre il principio di efficacia che muove qua giù, però io non mi sono arresa. Io guardo il volo degli uccelli e che gioia che ho, per un po' mi sento serena, mentre il principio di efficienza che vige qua giù, però io non mi sono arresa. L'importante è sentirsi vivo, ma guardo dentro di me nella prospettiva che l'importante è sentirsi viva, ma guardo dentro.